Buonasera a tutti. Ci rialzo male. Stasera il computer non so se... Diciamo che almeno la barra ogni tanto me la faceva... Vabbè, vediamo un attimino che succede. Che devi morire. Sì. Allora qua siamo già alla terza vita. Eccolo qua. Una volta che parla barra sono tranquillo. Sì, sì, va bene. Allora, la scorsa settimana ci siamo dilungati ampiamente sulle caselle di testo, sulle caselle combinate, pardon. Ma in particolar modo la cosa che avevamo visto, il concetto fondamentale che avevamo approfondito, era la possibilità di collegare o non collegare due tabelle fra di loro. Ciò che fondamentalmente era venuto fuori è che mentre se io collego due tabelle fra di loro ottengo la possibilità di non duplicare i generi, cioè poi una delle cose che mi interessava maggiormente, però se le collego fra di loro questo meccanismo mi viene impedito dalla integrità referenziale. Integrità referenziale che mi dice: attenzione, tu non puoi andare ad inserire un genere nella tabella film che non esiste nella tabella 0 underscore generi, perché sennò ti troveresti un record orfano. La stessa cosa in realtà io la posso fare con il semplice dirgli: vai a pescare i dati nella tabella 0 underscore. Ma se le due tabelle non sono collegate, ho lo svantaggio che nel momento in cui dovesse cambiare il nome di un genere nella tabella madre, non viene a cambiare in cascata nella tabella figlia. Ok? Questo era un po' il succo del discorso della settimana scorsa. Tra l'altro, per chi non lo conoscesse, questo qua è un bel programmino, Nimbus. Nimbus. Apro e chiudo. Quando ho preso il cellulare ho iniziato a cercare tutti i programmi multipiattaforma, trick and track. Poi, siccome io ho sempre avuto Nokia, ho dei cari amici con Nokia, io ho un altro cellulare, eccetera, eccetera, ho sempre cercato dei programmi che andassero bene un po' su tutti. No? Nimbus, secondo me, è un programmino carinissimo che serve per interfacciarsi a vari sistemi di messaggistica istantanea. Quindi Yahoo Messenger, Gtalk, la chat di Facebook, chi più ne ha più ne metta. Stanno tutte dentro un unico programma e oltretutto va bene su Android, iPhone, Nokia e PC. Veramente carinissimo. Chiusa. Magari chi se ne frega, voglio dire, no? Eppure, a Natale abbiamo regalato il cellulare a mia madre. Gliel'ho installato anche lei. Adesso si sta prendendo, eh? Sì, poi io sono detto che la spingo così. Dai, mamma. Sì, sì, ma infatti anche lei, alla fine siamo sempre io e lei che ci mandiamo le mie... Però... No, però vedere una donna di... Perché adesso ho 65 anni quest'anno, che si mette a fare gli sms un po' particolari con le immagini, cose del genere, e fa tenerezza perché vedi che si mette gli occhiali... Ah, ok, aspetta. Mette gli occhiali e inizia. E mi fa morire, infatti è il mio idolo. Il mio idolo. È il mio idolo, no? Ripeto. Va bene, chiuso perché, ripeto, chi se ne frega. Allora, Alla fine poi della lezione della settimana scorsa ci eravamo lasciati con alcune o forse una proposta, una, di esercizio. Dell'ospedale. Hai il testo o lo recupero se no? No, forse ce l'ho qua. Non mi ricordo se è questo o l'altro. No, allora è l'altro. Questo. Ok. Vabbè, allora proviamo ad impostare in grosso modo questo esercizio sulla carta. E dopodiché inizieremo a farlo anche sul computer. E questo sostanzialmente inizia ad essere il nostro primo vero esercizio su computer. Come avevo detto, la prima parte del corso l'abbiamo dedicata sostanzialmente a tutta la parte concettuale. La seconda parte del corso l'abbiamo dedicata a una sorta di ripasso per chi ha frequentato l'anno scorso e di messa in pratica dei concetti visti per chi sta seguendo quest'anno. La terza parte del corso sarà sostanzialmente quella di andare a fare degli esercizi. Durante gli esercizi ci troveremo poi davanti a delle difficoltà che riusciremo a risolvere tramite delle query. Quindi sostanzialmente questa terza barra quarta parte del corso sarà orientata a fare esercizi, magari sempre un pochino più complessi, ma soprattutto ad andare a vedere poi le query. Query che fino ad oggi abbiamo fatto soltanto le query di selezione e le query di creazione tabella. Sulla selezione abbiamo fatto anche le query parametriche, perché abbiamo visto semplici e parametriche, esattamente. Non avevamo fatto tanto l'end e l'or, vero? Sì? Ok, però poco. Sì, sulla tabella. Sì, infatti. Sì, quindi le avevamo accennate, ma sicuramente da approfondire. E poi, invece, la parte più su cosa sarà quella di andare a fare le query di calcolo, sia in colonna che in riga. E allora lì ci si diverte. Ok, allora iniziamo ad impostare sulla carta questo esercizio. Quindi si parlava di un'azienda locale sanitaria locale, quindi un ASL. L'esercizio, abbiamo detto, ha tutti i limiti del caso, sicuramente non è esattamente come nella realtà, ma noi ci basiamo sull'esempio che ci viene proposto. Allora, come avevamo visto quando iniziavamo a progettare i nostri database, il primo passaggio è quello di buttare tutti i dati su un foglio di carta. Per cui la prima cosa che si doveva fare è iniziare a buttare i dati che ci viene proposto nell'esercizio. Allora ci dice che ci sono degli ospedali, quindi ospedale, caratterizzato da un codice identificativo, quindi code ospedale, anche se abbiamo detto che non si danno mai abbreviazioni, ma lasciatemi questa licenza per non scrivere tutte le volte tutto, quindi code ospedale, nome e indirizzo. E questa fondamentalmente era una prima tabella, ovvero la tabella ospedale. Poi c'è la tabella dipendenti. Ora, vabbè, facciamola così come ce la propone. Allora, innanzitutto dice dipendenti di ogni ospedale. Dipendenti di ogni ospedale, cosa ci deve far venire in mente? Sì. Un legame di tipo a molti. È ovvio che ci possono essere più ospedali, ma chi se ne frega? Quello che mi interessa è che per ogni ospedale ci sono più dipendenti. Quindi, dipendente matricola, quindi chiamiamola id matricola. Anche qua chiamiamolo invece che codice ospedale, id ospedale o id codice ospedale, insomma. Cognome nome. Anzi, signori, facciamo così, scriviamoli tutti quanti uguali, perché poi se ci dobbiamo mandare le query nel gruppo, se uno mi ha scritto id codice ospedale, l'altro id ospedale, tutte le volte devo star lì a tirar giù query in latino per cercare di far quadrare, ok? Allora, la tabella ospedali, facciamo le cose per benino, via. Ospedali, chiamiamo id ospedale, nome e indirizzo. La tabella dipendenti, chiamiamo id matricola, cognome, nome, data nascita, ricordatevi sempre tutto attaccato, i campi tutti attaccati, non mi fate arrabbiare quando mi mandate le query. Indirizzo e numeri di figlio a carico. Indirizzo e numero figli carico. Tutto attaccato sempre con le prime lettere maiuscole. Poi i dipendenti sono suddivisi in medici, impiegati, amministrativi ed infermieri. Quindi sostanzialmente bisogna poi andare a capire come inserire questi medici, impiegati, amministrativi. Per il momento lasciamolo lì. Allora, l'ospedale è suddiviso in reparti, caratterizzati da un codice, quindi abbiamo reparti. Quindi ID reparto, che sarà un codice, nome e posti. ID reparto, nome e posti. Mettiamo posti letto o posti? Non ho capito. Mettiamo posti letto o morto? Posti. Sì. No, giusto. Poi c'è un'altra parte della frase che invece andiamo a vedere con attenzione. Allora, signori, fino qua ridondanze non ce ne sono, perché supponiamo di avere 10 ospedali, difficilmente, se non praticamente impossibile, che due ospedali diversi stiano sullo stesso indirizzo. Può capitare, ma è veramente un caso strararissimo. Sì, però voglio dire, è un caso strararissimo. Vabbè, al di là, signori. I reparti, non ci saranno due reparti con lo stesso nome, perché non avrebbe senso all'interno dello stesso ospedale. E poi i dipendenti, chiaramente non ci possono essere due dipendenti con la stessa matricola. Va bene. Poi, ciascun reparto può gestire delle sale operatorie di cui è noto un codice identificativo. Sì, no, ancora c'è della roba da sistemare, però per il momento fermiamoci qua, poi dopo andiamo a sistemare gli altri elementi. Allora, ciascun reparto può gestire delle sale operatorie, quindi sale operatorie, sì, di cui è noto un codice identificativo, quindi ID sala. Chiamiamolo sala, così non so. Nome e numero di tavoli. Nome e numero di tavoli. Ok? Tavoli. Quindi fino qua, insomma, non c'erano particolari difficoltà. Tutti d'accordo? Quindi avrò la mia ospedali, la mia reparti, la mia sale e la mia dipendenti. Ok? Quindi andiamo a rileggerci il testo. Il testo ci dice: i dipendenti di ogni ospedale sono caratterizzati da una matricola univoca. Univoca nell'ospedale. Ecco, già univoca nell'ospedale ci dovrebbe dire qualcosa. Sì, però voglio dire, lui qua ti dice un'altra cosa, ti dice la matricola è univoca, quindi Vittorio Zuccarà alle Molinette avrà in quell'ospedale. In un altro ci può essere un altro, con un altro nome, con lo stesso numero di matricola. Sì, correttissimo, ed è giusto, eh? Giustissimo. Però qua ci sta dicendo una cosa diversa, cioè che il dipendente ha una matricola univoca nell'ospedale, in quell'ospedale. Quindi alle Molinette avrà una matricola, al San Luigi ne avrà un'altra. Ok? Che non è detto che la stessa matricola può essere in due ospedali, ma ti sta dicendo che lo stesso dipendente può avere due matricole. Poi un sottocaso può essere che la stessa matricola può essere in due ospedali. Ma per esempio Vittorio Zuccarà in un ospedale può avere 1, 2, 3, 4, nell'altro può avere AH72. Mi piace la caparbietà perché poi io mi ci butto a pesce. No, non è la stessa cosa. Ma come fa? No, no, no, scusa, perché è una cosa che mi piace tantissimo. Poi in famiglia noi siamo tutti arieti, tori, altro, perché io sono abituato da piccolo. No, quello che sta dicendo è un sottocaso particolare, del tipo, se io ho una matricola numerica, 1, 2, 3, 4, e nell'altro ospedale c'è una matricola H7P5, siamo d'accordo che negli due ospedali lo stesso numero di matricola non ce lo potrò mai avere? Quindi non è la stessa cosa. Quello che dice lei è un sottocaso. Cioè nel caso in cui in tutti e due gli ospedali io abbia la stessa tipologia di matricola, allora è vero anche quello che dice lei. Ma l'esercizio mi sta dicendo una cosa diversa. Cioè l'utente Vittorio Zuccarà in un ospedale può avere una matricola, nell'altro un'altra diversa. Ok. No, no, no, è giusto quello che dice la signora, ma è un sottocaso di quello che ci sta dicendo qua. È trascendentale, però, perché il sindicato è un dipendente. Tenete conto che questo qua, signori, è un esercizio che hanno fatto al Politecnico di Torino, non i dipendenti dell'ASL. Quindi questi ragionano come ragionerebbe un dipendente del Politecnico di Torino. Ora, l'assunto che si fa in questo esercizio e traspare da quello che c'è scritto in quelle righe è che uno stesso dipendente può lavorare in due ospedali. Devo essere sincero, io non sapevo nemmeno che non fosse possibile. Voi magari lo sapete perché o ci avete lavorato o ci avete avuto a che fare. Io non lo sapevo nemmeno, per cui seguiamo la traccia che lui ci dà. E la traccia che lui ci dice è che i dipendenti di ogni ospedale sono caratterizzati da una matricola univoca nell'ospedale. E questo fa presupporre che lo stesso dipendente può lavorare anche in più ospedali. Il medico? Vabbè, comunque. È un dipendente anche il medico, no? Cognome, nome, data di nascita, indirizzo e numero di figli a carico. I dipendenti sono suddivisi in medici, di cui si conosce l'elenco delle specialità, ed impiegati amministrativi, di cui si conosce la mansione, e gli infermieri. E adesso ce la dobbiamo un po' giocare. Allora, come ci giochiamo le relazioni? Se ci avete pensato a casa, mi rispondete adesso, ma se ci avete riflettuto a casa, non iniziate a spararmi le cose così. Se no, pensateci un secondo, pensiamo che cosa stiamo facendo. Quindi, i dipendenti sono suddivisi in medici, impiegati amministrativi ed infermieri. Per i medici si conosce l'elenco delle specialità, per gli impiegati amministratori si conosce la mansione. Allora, sì, ma dimmi. Nella tabella dipendenti ho aggiunto un ruolo e poi ho creato una tabella zero score per le tre specialità, cioè per i medici, per gli impiegati amministrativi e per gli interni. Quindi hai sfruttato lo stesso concetto che abbiamo sfruttato per il discorso generi musica o generi film. E quindi è usato lo stesso meccanismo. Sì, va bene, ma qual è l'assunto che hai fatto? L'assunto che ho fatto, che non ho fatto la relazione. No, supponiamo anche che tu faccia la relazione. Ma l'ipotesi che fai se sfrutti questo modello, qual è? L'ho fatto perché inizialmente ho pensato, se poi c'è una persona che inserisce i dati... Non stai rispondendo alla mia domanda. Lascia perdere l'inserimento dei dati, il database e tutto il resto. Io ti sto parlando concettualmente. Se tu mi fai una tabella mansioni, 0_mansioni, e mi metti il campo mansione dentro dipendenti, stai facendo un'ipotesi. Qual è questa ipotesi? Implicitamente. Signori, questo corso vi deve servire proprio questo, a ragionare alle ipotesi che fate. Bravissima. Ma non è scontato. Io che non ho mai lavorato in ospedale non so se questo sia vero. Se uno da una parte non può fare il bidello, quello che pulisce per terra, e dall'altra l'infermiere. Quindi la ipotesi che sta dietro a questa formulazione, però bisogna essere consapevoli di queste cose, perché poi è questo che fa una buona programmazione di un database da una programmazione approssimativa. L'assunto che si fa è che ogni persona può avere una ed una sola mansione. Non sto dicendo che... Guardate, dicendo che quando faremo queste programmazioni di database non è mai né giusto né sbagliato, ma è semplicemente un qualcosa che sta dietro ad un'ipotesi. Quindi, un'idea sarebbe quella di dire... Creo il campo mansione e poi una 0_mansioni con id mansione, scusate, anche questa chiamiamola id mansione, ed una relazione una a molti. Ora, al di là di farmi questo disegnino qua, scrivetevi, magari fatevi scrivete un 1 asterisco o una A asterisco, scrivetevi che dietro questa relazione c'è l'assunto, c'è il presupposto che ogni persona può avere una ed una sola mansione. Che, ripeto, non è né giusto né sbagliato. Bisogna, nel momento in cui si fanno le cose seriamente, capire se questo è vero o meno. Non so se... Cioè, io posso fare l'infermiera da una parte, il... Perché vedendo lì... Che ne so, L'operaio da un'altra parte. Ok. Ma penso che vada in tutti i settori, cioè uno che è ingegnere, a meno che non abbia carenza di lavoro, da buscare qualunque cosa gli propongano, ma se viene assunto in un'azienda con un ruolo, che basta. Ok. Che poi, come è messo lì, praticamente amministrativo si conosce là, insieme, perciò potrebbe essere lì. Sì, sì, sì, sì. Ah, ripeto, signori, sono giusti tutti i ragionamenti. A me quello che interessa è la consapevolezza, cioè che voi dietro ad una relazione ci mettiate dentro la consapevolezza. Poi io non dico né che sia giusto né che sia sbagliato. L'importante è che un domani uno è consapevole che fare una relazione di quel tipo vuol dire che ad una persona corrisponde una mansione. Se questo è vero, va avanti. Se non è vero o se ha il dubbio, uno chiede a chi sta commissionando il lavoro o se serve a noi stessi e si cerca di sviluppare... Adesso all'ospedale ci arriviamo. La cosa però che non mi convince è che, ad esempio, il medico, l'impiegato amministrativo è una mansione. Il dipendente, l'infermiere è una mansione sola. I medici sono diversi, non è uno solo. Ad esempio, c'è il medico che fa questo, l'altro medico. Anche gli impiegati amministrativi ci possono essere più. Diversità di mansioni. Ok, allora la. Ah sì, qua bisogna fare delle ipotesi. Qui bisogna fare delle ipotesi. Ora, la differenza di mansioni all'interno degli impiegati amministrativi o delle specialità attribuibile a un singolo medico. Da cosa dipendono? Cioè, voglio dire, l'impiegato amministrativo farà paghe e contributi e contabilità. Sì, ma voglio dire, il Vittorio Zuccalà che è impiegato amministrativo e fa paghe e contributi e contabilità. L'infermiere, non so, può anche esserci l'infermiere di sala operatoria, l'infermiere solo di... Anche lì ci sono altre, quindi lo dividerei ulteriormente. Ok, okay. Ma e ripeto, va benissimo, cioè non sto dicendo che sia sbagliato, sto solo dicendo... Allora, una prima ipotesi potrebbe essere quella di dire faccio ID, oltre che mansione, specialità... E sfrutto la stessa cosa, quindi 0 underscore specialità con ID specialità è una relazione 1 a molti. Quindi in mansione andrò a mettere medico, impiegato amministrativo o infermiere e in specialità andrò a mettere la specialità del medico anziché la specialità dell'impiegato amministrativo. Questa potrebbe essere una prima visione. Chiaro che, ripeto, do per scontato che ogni impiegato amministrativo abbia una sola specialità, o meglio, anche se ne ha più di una, all'interno di quell'ospedale lì farà solo una cosa. E analogamente do per scontato che un medico avrà una sola mansione, o meglio, anche se il medico ha diverse specializzazioni, in quell'ospedale lì farà soltanto, eserciterà soltanto una specializzazione. Ecco, allora. Allora, innanzitutto io vorrei che prima di tutto voi mi diceste sì, ho capito questo discorso. Quindi una possibile soluzione era questa, che ripeto per la n più ennesima volta, ma lo sentirete ripetere tantissimo durante questo corso, non è né giusta né sbagliata, semplicemente parte dal presupposto che io possa avere tre tipologie di mansioni, che sono medico, impiegato amministrativo, anziché infermiere. Se sono medico o impiegato amministrativo, posso avere una ed una sola specializzazione. O quantomeno all'interno di quell'ospedale ne posso esercitare una e una sola. Oppure c'è un'altra possibile soluzione. Che devo essere sincero, a me piace un pochino di più. Quale può essere un'altra possibile soluzione? Beh, certo che se non li metto come campi in una, li metto dall'altra parte. Ok. Ma parliamo del ragionamento che ci sta alle spalle. Quale può essere un altro tipo di ragionamento? Invece di dire ogni persona ha una specialità e una mansione, posso pensare che una persona abbia più specialità, magari anche all'interno della stessa mansione. Perché? Magari un contabile in un ospedale lavora part-time come contabilità, nell'altro come paga i contributi. Difficile? Raro? Possibile. E allora? Ecco, un medico sicuramente, magari che ne so, qua è primario di ortopedia e dall'altra parte... Ginecologo? No. Ginecologo? E che ne sai? Al di là delle battute, però voglio dire, magari può avere una specialità diversa, magari della parte primaria o dall'altra parte, assistente. Comunque, insomma, non mi interessa le varie sfumature nelle varie categorie. Quello che mi interessa è l'altro punto di vista che possiamo applicare a questo esercizio. Ok, ci vorrebbe una certa partecipazione da parte vostra a questo punto. Come la vedi così, mi sembra che devi avere le mansioni suddivise poi per le politiche, quindi un rapporto molti a molti. Tra dipendente e specialità e passando per le mansioni. È andato bene. E ti sei un po' perso. Tra dipendente e mansioni. Riparti tra fuoco, acqua, ospedali. Va bene. Nel senso che per ogni ospedale ci sono tanti dipendenti, per ogni dipendente ci possono essere tanti ospedali. E questa non è una 1 a molti. E la 1 a molti non prevede l'inserimento di una tabella in mezzo? Di mansione specialità. Quindi ci sarà, e io personalmente la preferirei, poi è da vedere bene, sto improvvisando, però io vedrei bene un ID, un impieghi, una tabella impieghi, con ID impiego, ID ospedale, ID matricola, mansione e specializzazione. Allora, ID ospedale, 1 a molti, ID matricola, 1 a molti, e qua gli metto mansione e specializzazione. Quindi in un ospedale Io avrò diverse matricole e per ognuna delle matricole gli vado a dire che mansione e specializzazione ha. E analogamente ogni matricola può lavorare in diversi ospedali con diverse mansioni o specializzazioni. Sì, le mettiamo tutte quante i D, così... Sì, sì, hai ragione. Allora, per provare a spiegare in un altro modo questo discorso, aspettate che... Allora, per provare a raccontare in maniera diversa questo discorso, di modo che sia un pochino più chiaro, innanzitutto è chiaro il discorso del per ogni ospedale ci possono essere più dipendenti e per ogni dipendente ci possono essere più ospedali? Ok. Allora, in questo caso quindi ho una relazione molti a molti. Sei d'accordo? Da quello che abbiamo studiato all'inizio del corso, una relazione molto molti, implica che cosa? Una terza tabella. Questa terza tabella deve avere una sua chiave primaria. Tu fermami nel momento in cui non mi segui più. Una sua chiave primaria. Deve avere la chiave primaria di una, la chiave primaria dell'altra, e poi eventuali altri campi. In questo caso, questa tabella impieghi mi lega ospedale con dipendenti, quindi per ogni ospedale ho tanti dipendenti, per ogni dipendente ho tanti ospedali, e in particolar modo mansione e specializzazione li metto qua, di modo che l'ospedale 1, la matricola 1, sarà un medico ortopedico. Nell'ospedale 2 la matricola 1 sarà ancora un medico, ma sarà primario ortopedico. Ma cosa, scusa, la fai capire? Al di là del, voglio dire, la query non mi risolve nulla se io prima non imposto il database a priori. Allora, il discorso è, l'avete fatto lo schema precedente? Ok, se tu mansione e specializzazione me le metti sotto dipendente, quel dipendente non può essere altro che quella mansione e quella specializzazione. E non se ne esce fuori, mi puoi fare tutte le query che vuoi. Sei d'accordo su questo? Meno male. Viceversa, se ti imposti il lavoro in questa maniera qua, e allora ecco che la matricola 1 in due ospedali diversi può essere medico da una parte ortopedico e dall'altra parte primario. Nell'ospedale, certo, perché nell'ospedale 1 ha la matricola 1, nell'ospedale 2 Ah, la matricola, hai ragione. Hai ragione. È vero. È vero. Sì, sì, sì, sì. È vero, è vero. La matricola gliela metto a questo punto sempre all'interno di impieghi. È corretta come osservazione. Qua gli metterò un matricola in ospedale e a quel punto nell'ospedale 1 la matricola 1 avrà H52 e dall'altra parte avrà 55 TS. Esatto. Ho risposto alla domanda. Quindi, diciamo così, non è correttissimo in questo caso di lì chiamarlo ID matricola, ma dovrei chiamarlo piuttosto ID dipendente. ID dipendente che magari è un codice fiscale, no? E poi qua dentro ci sarà ID impiego, ID ospedale, ID dipendente e matricola. In questo modo il codice fiscale ZCC, VTR, bla bla, in due ospedali diversi avrà due matricole diverse. Contatore. Ma è chiaro la osservazione del signore, perché è importante, è vero, non ci avevo pensato. Cioè, dato che lì lui mi dice che la stessa persona può avere in ospedali diversi matricole diverse, come stavo facendo prima, in realtà io stavo legando una persona ad avere sempre solo una matricola. E allora l'approccio migliore sarebbe dire ID dipendente, dove ID dipendente può essere o il codice fiscale, o un contatore, o il numero di carta d'identità, e poi nella tabella impieghi mettere la matricola. Di modo che il codice fiscale 1 in due ospedali diversi avrà due numeri di matricola differente. Sì, sì, sì, li puoi legare con due tabelle zero underscore. Non ho capito, Vanni. Il contrario di chi? Sì. Sì, che è quello che si ottiene in questa maniera qua. Facciamo un po' di chiarezza nei termini. Dopo l'osservazione del signore, io ho cambiato leggermente, ok, e quindi non perdiamoci i passaggi. Mentre qua prima c'è scritto ID matricola, io adesso ho scritto ID dipendente. O, se preferite, così proprio fughiamo ogni dubbio, ID codice fiscale, cioè proprio tutta un'altra roba, un qualcosa che identifichi la persona, non più la persona dentro la struttura, ma la persona. A quel punto impieghi sarà strutturata nel seguente modo: ID impiego, ID ospedale, ID codice fiscale, D'accordo? A questo punto avrà matricola. Matricola. No, matricola. Mansione e specialità. Siete d'accordo? Quindi, lo stesso dipendente, supponiamo che questo sia un codice fiscale, lo stesso dipendente in due ospedali diversi ha due matricole diverse. E due mansioni diverse. Potrebbero coincidere. Nel sottocaso in cui diceva la signora che magari lo stesso, due ospedali diversi hanno la stessa nomenclatura nelle, però è un sottocaso. E dire che siamo ancora la prima. E abbiamo creato questa prima e semplicissima relazione, voleva giustamente dire, per metterne in relazione ospedale con dipendenti. Ancora c'è da mettere reparti e sale operatorie, ma voglia. Sì, ma allora, e va bene. Va benissimo. Cioè, a me personalmente non turba una soluzione o l'altra soluzione. A me quello che preme particolarmente, allora, il discorso è questo, signori. Se voi comprate dei libri di Access in libreria, che pagate 80 euro a libro, il libro di Access vi dice come fare le relazioni, vi dice come fare le query, vi dice come fare i report, vi racconta il report come si fa ad allineare due finestrelle con altre due, roba che magari io non vi dirò perché passerò un pochino oltre. Quello che non vi dice il libro di Access però è i ragionamenti che ci stanno alle spalle. Allora, quello che a me preme è che voi comprendiate il ragionamento che ci sta alle spalle. Ora, il ragionamento che avete fatto voi, lo ripeto per la n più ennesima volta, non è sbagliato, ma dà per scontato appunto che ogni dipendente abbia una sola mansione, okay? Anche se lavora su più ospedali. Questa soluzione, viceversa, è un cicinin più flessibile, perché mi dice, guarda che un dipendente può lavorare in più ospedali e in ciascun ospedale può avere mansioni o specializzazioni differenti. È chiaro questo? Quindi il motivo di queste due, di questa singola, perché ancora per il momento ho fatto solo una relazione, ho relazionato ospedale con dipendenti. Poi il fatto che ci sia una tabella in mezzo e che ci siano due relazioni, la relazione in realtà è tra ospedale e dipendenti. Quindi siamo ancora a una relazione. Però questo implica che ogni dipendente può avere mansioni diverse in ospedali diversi. Giusto o sbagliato che sia. Dopodiché mi dice che ciascun ospedale è suddiviso in reparti, caratterizzati da codice, numero di posti letto, e per ogni reparto si conosce il medico che ne è il primario e i dipendenti che vi lavorano. E qui, quindi il reparto sta dentro l'ospedale, nel reparto ci lavorano medici ed infermieri. Come releziono sto reparto? Con l'ospedale? Allora, ogni ospedale ha più reparti? Sì. Ogni reparto ha più ospedali? No. Quindi già questo mi fa piacere. Poi? Ogni reparto ha più dipendenti? Ogni dipendente ha più reparti? E allora? Facciamo un'altra cappella di raccordo. E allora? Facciamo molti a molti. C'è una cosina che vi avevo detto l'anno scorso, a chi mi ha seguito l'anno scorso, ma non vi ho ancora detto quest'anno. Quando si fa, anche perché non siamo mai andati in un livello di complicazione così. Quando si hanno più tabelle relazionate fra di loro, non bisogna mai avere circoli chiusi. Questo a chi ha seguito solo quest'anno ancora non l'ho detto. Cioè, se io ho la tabella, e questo scrivetelo perché è una regola d'oro che vi può risolvere spesso molti dubbi. Se io ho la tabella, non so se mi vedete, leggete di là, la tabella A, la tabella B e la tabella C, posso relazionare A con C, posso relazionare B con C, ma non posso relazionare A con B o viceversa, perché questo creerebbe un circolo chiuso. In sostanza, una delle tre relazioni non ci deve essere. Quindi quando voi avete tre tabelle, o anche cinque tabelle, da qualche parte si è creato un circolo, vuol dire che un meccanismo non va bene. Una di queste non ci deve essere. Quindi se io ho una tabella A, una tabella B, una tabella C, magari relazionate così, una tabella D, D può essere o legata ad A, o legata a B, o legata a C, supponiamo che io la leghi a C, ci sta, ma non posso poi fare per esempio questo o questo, perché avrei un circolo. Ma, allora, ospedale con reparti va bene. Ospedale con reparto va bene. Reparto con impieghi, ma eccolo qua il circolo. Ah no, hai ragione. No, avrei ospedale, impiego, dipendente, reparto, questo con questo, questo con questo, questo con questo. E il reparto, in qualche modo io lo devo dire che nel reparto ci sono dei dipendenti. Per il momento siamo in questa situazione, no? Per ogni ospedale ci sono tanti dipendenti, per ogni dipendente ci sono tanti ospedali. E va bene, dobbiamo ficcare solo reparti da qualche parte. Dove lo andiamo a infilare? Negli impieghi. E poi? Basta. Esatto. Così mi piace. È vero che ogni ospedale ha molti reparti. È verissimo che ogni ospedale ha molti reparti. Ma se io faccio un lavoro del genere, il problema è che poi il reparto lo devo in qualche modo legare alle persone. Sei d'accordo? No, allora, poi sì, sì. Allora, ma l'interrogazione lasciala perdere. A me interessa la relazione. Guardate che una volta che i database sono strutturati correttamente, fare le interrogazioni è la roba più semplice di sto mondo. Allora, quello che mi preme capire è: per ogni ospedale ci sono tanti reparti e non ci piove. Il problema fondamentale è che anche per ogni reparto ci sono tante persone. Quindi se io faccio una relazione di questo tipo, poi il reparto la devo collegare ai dipendenti, o tramite impieghi o tramite dipendenti. Quindi o così o cos'ha. Ma se in un modo che nell'altro io faccio un circolo. Sei d'accordo? Quindi non vi buttate subito nella relazione, tra virgolette, più scontata, sebbene sia corretta, perché alla lunga ha dei problemi, può avere dei problemi. La relazione migliore che io farei è proprio tramite la tabella impieghi. Perché in questo modo io relaziono, per ogni ospedale ci sono tanti reparti, per ogni dipendente ci sono tanti reparti, per ogni reparto ci sono tanti dipendenti. Anche lì è una molta. Anche lì è una molta, sì, sì. Sì, poi diciamo che in base alle ripetizioni che io ho potrà essere una a molti, molti a molti, ma non mi cambia più la vita il discorso. Quello che mi permette però di fare questo tipo di relazione è collegare tutti gli elementi con un'unica tabella. Prego. Io vedo il reparto solo se? No, perché? Perché? Signori, scusatemi, solo uno per volta, avete pazienza. Perché vede il reparto solo se ci sono gli impiegati? Allora, io a questo punto avrò impieghi con ID impiego, che sarà un contatore, ID ospedale, ID dipendente, ID reparto. Ma se non ci sono dipendenti in reparto, chi se ne frega, avrò un ID impiego 1, ID ospedale 1, dipendente non avrò niente, 0, ID reparto H52. La sua obiezione però ha un senso, mi scusi per la seconda volta, la sua obiezione però ha un senso, è chiaro la perplessità del signore? E ha un fondamento questa perplessità. Dove sta il problema? Non nella relazione. Innanzitutto, lo ripeto per l'ennesima volta, è chiaro la perplessità del Signore? Cioè il Signore mi dice, va bene, tutto funziona, tutto bello, bla bla. Il problema è però che se io non ho dipendenti all'interno del reparto, io quel reparto lì fondamentalmente non lo vedo. È giusto, no? Allora, la prima risposta che io darei è, sì, è vero. Chi se ne frega? Cioè se nel reparto non ci lavora nessuno, perché magari in un'ala che ancora non è stata aperta, ci sta. D'accordo? Un giorno o l'altro, quando sarà, ci sarà il reparto con N dipendenti. Quindi, in prima istanza, io posso anche avere un reparto che nelle mie query non viene fuori da nessuna parte. Ma d'altro canto, se non ci sono dipendenti, vuol dire che non viene usato, per cui mi chiedo, perché nelle query dovrebbe venire fuori? Così, perché magari qualcuno mi chiede, dimmi un po' quanti sono i reparti, perché magari ci voglio infilare dei dipendenti, giusto? Allora, però il problema dove sta? Scusa tu. Il problema dove sta? Non c'entra niente la query. Se io ID impiego 1, ID ospedale 1, dipendente non avrò 0, avrò null, perché ancora non c'è nessun dipendente. ID reparto H52. Quindi questo null non si collega a nessun dipendente. Il problema dove sta? Questo null non si collega a nessun dipendente. Se avessi? Bravissimo. Un po' aulico come termine, io lo userei all'italiana. Il problema sta nell'integrità referenziale. Perché l'integrità referenziale mi dice che non posso avere record orfani, per cui quello sarebbe un record orfano. Tolgo l'integrità referenziale ed ecco che sono a posto. Cioè, a quel punto lì il problema lo vado a risolvere con una casella tendina. E così il dipendente fittizio non glielo faccio mettere. Però questo problema qua lo risolve non mettendo in questa relazione l'integrità referenziale. Tra dipendente ed impiego, esattamente. Quindi io posso anche avere dipendenti senza impieghi. O in questo caso reparti senza dipendenti. Lo so, non è proprio immediato. Ancora 2 secondi. Non è proprio immediato, me ne rendo conto. Però mi piacciono questi momenti di confronto perché vengono fuori poi i dubbi, ma bisogna anche cercare di capire come risolverli quei dubbi. Allora, il problema di avere quel tipo di roba lì non è nel fatto della relazione o altro, perché la relazione funziona tutto. Non ci sono circoli, funzione, eccetera, eccetera. Il problema sta nel fatto dell'integrità referenziale. Togliendo l'integrità referenziale si può avere anche questa situazione. Poi bisogna chiedersi se questa situazione io la voglio o meno. Ma quello è un altro problema. Prego. Non potevo togliere la relazione ospedali-impiego e invece legare l'ospedale al reparto? Che è quello che voleva fare lui. Sì, esatto. Allora, io potevo anche fare così. Ci può stare, per ogni ospedale ci sono più reparti. A occhio direi che non vedo grosse controindicazioni. E tra reparto e dipendenti c'è una molti a molti. Tra reparto e dipendenti c'è una molti a molti con un impiego in mezzo. Va bene, questa è la soluzione che mi dice la signora, io ad occhio non vedo controindicazioni, quindi ospedale, reparto, impiego e dipendenti. Per ogni ospedale ci sono più reparti, verissimo. Per ogni reparto ci sono più impieghi, per ogni dipendente ci sono più impieghi. Per cui qua una relazione uno a molti e qua una relazione molti a molti. Non ci sono circoli, va bene. Bisogna togliere? Sì, sì, beh, è chiaro che poi qua dentro poi va tutto di conseguenza, signori, non me lo fate fare. È chiaro che a questo punto i ospedali andrà dentro reparti. Ci sta. Sì, perché tanto per ogni reparto non ci sono più ospedali, per cui sì, ci può stare. Però per ogni dipendente può esserci più ospedali. Per ogni dipendente ci sono più ospedali, sì, ma a questo punto in realtà per ogni dipendente ci sono più reparti e ogni reparto sta in ospedali diversi, per cui funziona di nuovo tutto. Prego. Anche se si chiamassero nello stesso modo, ma se stanno in 2 ospedali diversi va bene lo stesso. Sei d'accordo, Vardi? Cioè, è solo un discorso concettuale, cambia un pochino la logica di quello che c'è scritto lì, ma fa la stessa cosa che di quello che c'è scritto lì. Ma se questo dipendente lavora in più ospedali... Sì. In realtà è legato... Ma anche se fosse in più reparti dello stesso ospedale, sarebbe sempre legato a quell'ospedale, tramite il reparto. Cioè non è più legato direttamente all'ospedale, ma è legato al reparto che si trova in ospedale. Sì, funziona comunque. Giusto? Chiaro che poi, perché poi c'è l'altra chiave della medaglia, l'altra parte della medaglia, bisogna fare estremamente attenzione poi per ciascuna di quelle relazioni andargli a dire aggiorna in catena, elimina in catena. Quello è tutto un altro paio di maniche. Perché a seconda che io faccia un tipo di relazione o un altro tipo, aggiorna o elimina, devo andarlo a studiare con estrema attenzione. Comunque, questo, ripeto, è un altro discorso ancora. Dopodiché, l'ultimo punto mi dice ciascun reparto può gestire delle sale operatorie di cui è noto un codice, il numero, eccetera, eccetera. Quindi ogni reparto può avere più sale operatorie, nessuna o più sale operatorie. Quindi come lo gestisco il tutto? Una volta con il reparto. Una volta con il reparto. Perché il reparto può avere più sale operatorie. Allora. Reparto con sale operatorie. Uno a molti, quindi ogni reparto ha più sale operatorie. Tutti d'accordo? Stai studiando qua? Eh no, perché c'è un problema in realtà dietro. Può gestire avere solo un reparto, può essere gestita solo da un reparto, no? Un reparto non ci possono anche essere due sale. No, può essere gestito, la sala operatoria può essere gestita. No, vedi che non funziona così. Per più sale operatorie. Le sale operatorie sono dell'ospedale. È quello che diceva forse la volta scorsa lei. Non mi interessa. L'esercizio mi dice che ciascun reparto può gestire delle sale operatorie. Quindi io do per scontato che è il reparto che gestisce le sale operatorie. Poi se nella realtà è diverso, non mi interessa. Questo esercizio dice questo. Un reparto gestisce più sale operatorie, sì. E una sale operatorie questa non è più reparti. No, no, no, no. Ogni sale operatoria. No, no, no, scusate, signora, non facciamo confusione proprio in questo momento. Qua è la parte, tra virgolette, più semplice. Ciascun reparto può gestire più sale operatorie. Dove è scritto il contrario? No. Quindi qua c'è scritto, io da quello che capisco qua è che ciascun reparto può gestire delle sale operatorie di cui è noto il codice identificativo. Punto. Non c'è scritto che queste sale operatorie possono essere gestite da più reparti. Io di qua ne evinco che il reparto gestisce più sale operatorie. Ora, se io ho le relazioni fatte in questo modo, c'è qualcosa che stride. No, perché andrei a legare la sala operatoria al dipendente. Ma sono proprio due cose completamente diverse. Sì, ma non è quello. Il problema non è quello. Il problema è che se io. Se io. la tabella reparto, fatto in quella maniera lì, avrà ID reparto, ID ospedale, ID dipendente, ID sala operatoria e poi mansioni e specializzazioni. Dico bene? Quindi ci sarà ID dipendente, sì, matricola, mansione, cazzi e mazzi. Però focalizziamoci sulle cose fondamentali. Quindi ci sarà il reparto numero 1 dell'ospedale numero 1 che avrà il dipendente ZCC VTR con la sala operatoria numero 1. La mansione del dipendente è medico. Tutti d'accordo, no? Poi ci sarà il reparto numero 2 dell'ospedale numero 1. In questo reparto ci lavora di nuovo ZCC. Ma questo me lo permette. Questo me lo permette. Di solito il medico non lavora in questi reparti nello stesso. Vabbè, supponiamo che non sia il medico, supponiamo che sia l'infermiera. Ok, meno male. Ricordatevi sempre che non è una questione di, cioè la realtà, poi il database è un adattamento della realtà. L'infermiere non può lavorare in due reparti diversi dello stesso ospedale. Guardate lì che cosa c'è. Una bella ridondanza. Nella tabella reparti. Nella tabella reparti fatta così, reparto. Quindi reparto, sala operatoria, dipendente, così, cosa. Fatto così, quindi ci sarà l'ID del reparto che è la chiave primaria, l'ID dell'ospedale, l'ID dell'impiego. L'ID dell'impiego. L'ID impiego. Tanto comunque è la stessa cosa, no, non cambia grosso modo, cioè. Quindi sostanzialmente si viene a creare una bella ridondanza che non va granché bene. Viceversa, se io avessi una relazione del tipo ospedale impiego dipendente reparto, per ogni reparto tante sale operative, così dovrebbe funzionare, perché ci sarebbe ID ospedale, ID impiego, ID reparto e ID dipendente. Ora, nell'ospedale 1, con l'impiego 1, nel reparto 1 c'è il dipendente ZCC-VTR. Nell'ospedale 1, con l'impiego 2, nell'ospedale 2 con impiego 1 ci sarà il dipendente 1 ZCC. Sì, però voglio dire, sono due campi, cioè non sono n campi. Due campi è ammissibile. Signori, non è banalissimo, me ne rendo conto, però è il primo degli esercizi che ci siamo dati. Ora, a casa vorrei che voi provaste a riflettere su questi discorsi qua. Provate a riflettere, provate a scriverli sulla carta come ho fatto io, farvi l'esempio sia in un modo che nell'altro di relazione. E rifletteteci un pochino. Ok? Signori, con questo direi che vi auguro buona serata.